This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. We'll be right back. Robert Bart Dwine. Nasce il 21 novembre del 1939 e muore il 22 gennaio del 1987. È stato un politico e criminale statunitense, noto per il fatto che la mattina del 22 gennaio 1987 si suicidò sparandosi in bocca durante una conferenza stampa in diretta televisiva. Beh, insomma, benvenuti tutti a tutti, siamo in diretta dagli studi di Radio Città del Capo e anche questo sabato vi abbiamo intrattenuti da subito con qualcosa di allegro e divertente. Un po' rumoroso, ma... ma soprattutto con qualcosa di funereo, anche perché il primo brano di questo più o meno parlava o a questo si riferiva. Stiamo parlando di Rape Man, uno dei progetti più importanti di un personaggio molto conosciuto come Steve Albini, molto conosciuto almeno in ambito rock indipendente, si diceva così una volta, molto conosciuto per aver registrato l'ultimo album dei Nirvana, ma Steve Albini era stato molto, molto altro. Eh sì, decisamente, delle due forse più importante come autore e musicista che alla fine come fonico o insomma produttore. Beh, diciamo che i soldini magari li ha fatti col secondo mestiere. Questa è un'altra storia. Questo è molto, questo però, è molto, insomma, tipico. È molto tipico, insomma, anche nel giro comunque degli artisti americani. Soprattutto. Sì, soprattutto a Chicago, poi capitale di tanto genere musicale. Lì è nata l'house music, lì c'è uno dei migliori concerti filarmonici e anche di jazz. E poi praticamente ci sta Steve Albini e i suoi amici. E che amici. E che amici. Ricordiamo che lui nasce musicalmente con i Big Black, poi appunto forma i Rape Man e poi addirittura gli Shellac, quindi ha avuto tre gruppi il buon Steve Albini, non soltanto produttore, quindi. We'll be right back. Beh, insomma, dicevamo, Rape Man, già il nome è tutto un programma, deriva da un fumetto giapponese, però Steve Albini fu molto criticato per il nome, che vuol dire stupratore, ma è il nome di un fumetto giapponese, una cosa che Steve Albini conosceva abbastanza bene, anzi, ne era ossessionato. Lui è il chitarrista, Ray Washman, dei Rape Man. Tre, assieme a David Sims, tre tipici outsiders o white trash, come verrebbero definiti tuttora negli Stati Uniti, tre outsiders che cercavano di fare la loro. Addirittura bassista e batterista venivano dal Texas, Steve Albini un po' li conosceva per i classici percorsi affini, concerti immagino, e non solo, distribuzione tipica del mondo dell'hardcore di tutti gli anni 80 negli Stati Uniti, un sottobosco molto variegato e molto unito e coeso. Però insomma non era da tutti mollare tutto, appunto, e trasferirsi di botta a Chicago per intraprendere una nuova attività, buttarsi su qualcosa di nuovo, ma non è che si lasciassero poi dietro molto altro. Sia David Sims che Ray Washman erano anche loro reduci dalla chiusura, da un fallimento di un gruppo molto importante per il Texas e gli Stati Uniti tutti, sempre a livello sotterraneo, underground, erano in Scratch Acid. E sì, già negli anni 80, come dicevamo prima, era molto difficile, come diceva prima Rosario, era molto difficile vivere della propria musica. Quindi Steve Albini lo diceva apertamente: io suono come mia passione, ma la mia attività, visto che ho anche degli obblighi, è quella di principale, quella di produttore. Ciò nonostante, questo non gli ha impedito di realizzare album come questo. E anche il titolo non è male, Two Nuns and a Pack Mule, anche il titolo dell'album fa da coppia col nome del gruppo. Il titolo dell'album viene da un film porno con tanto di, come dire, intercorsi con animali più o meno accondiscendenti. Fate voi. Insomma, Steve Albini è un gran folle, secondo me molto avanti, se vogliamo, nel senso che non faceva altro, anche con questo disco qua, dava una critica abbastanza importante sulle insicurezze, arretratezza, odio alla fine dell'America del tempo, ma penso anche attuale, insomma. Sì, infatti lui si dedicava alla la cronaca della violenza perversa di una certa provincia, no? Vita di provincia statunitense, con queste poi scordature di chitarra assordanti e urla perché sgolate. Sono scordate? Non mi sembrava. Sì, il marchio di fabbrica, quel marchio di fabbrica di Steve Albini, che poi ha anche prodotto nei dischi, insomma, da lui lavorati. E, insomma, Chicago poi non è poi tanto una provincia, se vogliamo, perché è comunque la terza città degli Stati Uniti, ha la più grande borsa merci del mondo, è punto nevralgico dell'agricoltura addirittura statunitense, ma non solo, perché comunque da lì arrivano i prodotti dell'Iowa, dell'Indiana, dell'Illinois, tutti stati limitrofi a Chicago, appunto. È una città molto grande, insomma, terza della città come popolazione, però ricordiamo che è una delle capitali anche della magia nera, Chicago, insieme a Londra e anche Torino. Tu lo sapevi, Nicola? Ma stai scherzando, cioè. Quindi comunque una città dedita alla magia nera, terza città appunto mondiale, e forse diciamo si balbina, no? Fa parte poi alla fine delle capitali esoteriche, ecco, cioè, quindi insomma ci sono riscontri abbastanza per molti inquietanti, ma alla fine è una roba abbastanza normale, insomma, legata a astronomia e via dicendo. Sono delle zone più magiche di altre del pianeta Terra. E in buon Albini andava a rimestare nelle acque reflue di una bella metropoli. E guarda caso ci ha beccato pure là. We'll be right back. Oh, vabbè, finalmente ti sei deciso, hai messo un po' di sottofondo come si deve. Cioè, noi eravamo abituati a questo. Da Detroit a Chicago, poco ci passa, dopo tutto. Comunque, dicevamo, stiamo parlando di Chicago, dei Rape Men, un gruppo per certi versi seminale. Già non era facile trovare questo album qua in Italia, perché insomma erano comunque, ricordiamo, siamo nel 1988 e non so quante persone all'epoca ascoltassero queste sonorità, che erano veramente ostiche, ma non tanto per un'etichetta come la Touch and Go di Chicago, appunto, molto aperta, gestita in maniera cooperativa, con il quale Albini e soci riuscirono a buttare fuori questo album e a vendere anche un discreto numero di copie. Touch and Go non si spaventò neanche della loro richiesta di un perfezionista come era il nostro buon Steve di fare un'etichetta come si doveva, anche se l'ambiente da cui veniva Touch and Go era quello hardcore, dove ogni cosa era ridotta all'osso, lo stile delle copertine era sempre minimalista e ovviamente non è che fossero così curate, mentre se vi capita per le mani una copia di Two Nuns and a Half Pack and a Pack Mule, scusate, beh, insomma, vi trovate tra le mani un bel disco ben registrato. Ci spesero anche parecchi soldi, immagino, per l'epoca, ma quello non era un problema. Beh, diciamo che magari chi aveva ascoltato nella fine degli anni 80 i Sonic Youth, poi piano piano iniziava a conoscere anche questi gruppi, perché comunque il noise in Italia a grandi livelli, insomma, l'hanno portato sicuramente i quattro di New York. E poi, no, come si dice, una cosa mano lava l'altra, alla fine. E poi, no, ovviamente inizia la ricerca sui gruppi pre Sonic Youth, eccetera, e si arriva a Steve Albini e Company. Parlavamo del disco, vabbè, insomma, fighissima anche il package di tutto il disco, cioè con custodia color metallo, quindi una roba super lusso, fatta da un'etichetta, cioè comunque underground, e quindi che deve comunque fare i conti con delle ristrettezze economiche non da poco, e tutti i costi per promozioni e chi più ne ha più ne mette, insomma, quindi comunque vita sempre in salita, ma chi se ne frega, comunque la proposta musicale era quella scelta, e con cui poi, cioè, è molto più piacevole sbattersi per un qualcosa in cui ci credi per davvero. Ma poi è un modello che ha funzionato. Touch and Go era diventata anche un hub, un distributore per tantissime altre molte più piccole etichette, e cominciava a vendere magari non nell'88 ma a fine degli anni 90, prima dell'arrivo del web, di Napster, anche diverse centinaia di migliaia di copie, quindi aveva dimensioni comunque cooperative, ma aveva una buona redditività, insomma, si autososteneva. Siete sempre su Radio Città del Capo, sono le 16:13 minuti primi in FM o in streaming che siate. Grazie per la vostra gentile pazienza per ascoltare queste dissonanze assortite che, a differenza dei Sonic Youth di quel periodo che stavano cominciando a rendere un, diciamo, vagamente più orecchiabile, anche più pop, si può dire? Ma senza esagerare però, eh. Ma senza esagerare... E i Rape Man no, non volevano scendere a compromessi di alcun tipo per scarnificare tutto quello che vedevano, vivevano nella Chicago dell'epoca. Beh, siamo partiti con un senatore repubblicano che si fa saltare la testa in conferenza stampa diretta televisiva, per poi passare a una cover addirittura di uno dei gruppi preferiti di Steve Albini, di ZZ Top, con tutto il loro retroterra sudista rock and roll molto blues, che poi alla fine con Steve Albini c'entrava veramente ben poco, però insomma risistemata e personalizzata a dovere. E comunque dai, Steve Albini era un personaggio che non riusciva davvero a stare mai fermo fra lavori di produzione e dischi in giro, tour anche in Italia, è venuto con gli Shellac successivamente, però è davvero un personaggio a 360 gradi, mai fermo, lo potremmo definire il Yellow Biafra della Midwest, no? Sì, alla fine penso che sia poi alla fine figlio di della scena molto molto vicina e similare a quella punk hardcore americana, dove chi suona si autoproduce e cura anche le promozioni e tutto il resto, insomma. Il do it yourself di cui io rompo perennemente le scatole è sempre molto presente. La bandiera che sventoli sempre, sempre, insomma. Di continuo. We'll be right back. non possiamo non riprendere qui a This Is Not an Exit alcune osservazioni che fa il buon Scaruffi. E in una sua, in una delle sue tante, parlando di Steve Albini, periodo Shellac, se ne uscì con... Questa è una riflessione di Albini sulla sua stessa carriera, come se cercasse di dare un senso al suo viaggio in una terra di dannati. Ma erano più sordidi gli ZZ Top o quello che i Rape Man facevano rivisitandoli? Perché insomma il famoso famigerato Southern Rock era un rock che quantomeno doveva darti una certa carica, quasi anche autocelebrativo. Evidentemente qualcosa mal celava e i nostri Rape Man stupravano anche quello, soprattutto quello. Ricordo che, a parte il titolo, che ne dica Steve Albini, Rape Man voleva dire stuprare tutto quello che il mainstream, la vulgata, chiamatela come volete, o comunque la narrazione ufficiale americana portava in giro. Lo si vedeva anche ai concerti, dove Steve Albini era un noto provocatore fin dai tempi dei Big Black e non aveva perso l'abitudine di far fuoriuscire il pus di violenza repressa di una società comunque molto rigida e molto strutturata intorno agli anni 80 e, come dire, il buongiorno si vedeva dal mattino. Blanca was busy. She was in the kitchen while we were downstairs fucking, and she called me a bitch, and I tried to tell her it was nothing. I gotta stop drinking around me. There's nobody over. Why don't you come by? You'll like it. You wanna stay up with me? You can buy a pizza. Bellissima la parte finale. Sì, molto bella. Non c'è che dire. Siamo sempre in diretta, siamo ormai ai saluti anche per questa puntata di This Is Not An Exit. Sì, perché sono le 16:28 minuti primi. Siete su Radio Città del Capo. I ragazzi di If The Kids Are United sono qui fuori che aspettano, e quindi non ci resta che salutarvi e ringraziarvi per la pazienza con i quali vi siete lasciati scorticare le orecchie da Rape Man. Comunque ogni tanto ci vuole, dai ragazzi. Ma sì, a sabato prossimo con qualcosa di ancora più urticante. No, sto scherzando. Una promessa è debito. Ormai l'hai detto, eh. rispose. Meteorati.